Sigla. Buonasera, buonasera e benvenuti a quest'ottava di Clandestino Cid, ringraziando le ragazze della scuola, di una piccola scuola vicino a Agrigento, che ci hanno donato questa bellissima versione di Bella figliola che ti chiami Rosa tramite un progetto POM. Ok, Peppe, sta la macchina? Finalmente sì, siamo riusciti a partire, Ciccio. Non si capisce quale divinità si abbatta ogni volta contro la nostra trasmissione, contro Fuori Onda Radio in generale, però anche stavolta dopo con l'ennesima difficoltà siamo riusciti a partire. Ok, salutiamo tutta la SJ Crew di San Giovanni in Fiore e andiamo avanti con la buona musica e la trasmissione. Bella Leo! Andiamo con il primo pezzo. Due ragazzi nel mondo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano. Rientra in studio, si rientra e diciamo di De Gregori, sulle note di De Gregori, sulle note di De Gregori, e dedichiamo questo pezzo a bicicletta, bicicletta che ci ascolta da Fano, da Fano forse, e Adrienne che ci ascolta dalla Francia, un altro lui, estimatore del ciclismo, ricordiamolo presente quando il tour passò da 4 miglia, c'era esatto, soltanto lui. Ciao Adrienne. Ciao Adriano, ciao figliolo. Ok Peppe, andiamo avanti con le notizie. La nostra notizia ci arriva dall'India, precisamente da Nuova Delhi, dove praticamente il reato di omosessualità, cioè l'omosessualità diventa reato, Peppe, diventa reato che viene proprio punito con una multa e una pena definitiva fino a 10 anni chi ha rapporti con persone con dello stesso sesso definiti contro natura, caro Peppe. Noi di Clandestino Cid denunciamo tutto questo, è obbrobrioso, cioè, ogni forma di disprezzo per chi la pensa in maniera diversa da te. Beh, certo, Peppe, perché alla fine, guarda, una volta che viene legittimata da uno Stato, compiere atti razziali poi diventa quasi una moda o un senso civico di appartenenza. Quindi, cioè, è qualcosa di scandaloso. Siamo nel 2013, ma anche, tanto per citarne una, l'anno che corre, ma comunque l'amore è l'amore, Peppe. Posso amare un muro, posso amare una pietra, chiunque, non ho capito. Libertà. Libertà di amare qualsiasi cosa. Appunto per questo vi informiamo che è possibile partecipare a questa protesta che è nata per protestare così contro questa decisione della Corte Suprema indiana, e potrete cambiare la vostra immagine di profilo con un'immagine che sta girando e che potrete trovare sulla vostra barra di ricerca Facebook Gay for a Day, dove sono rappresentati due ragazzi che si baciano lo stesso sesso. Peppe, noi che amiamo far l'amore con cosa amo far l'amore? Non lo so. No, più che altro sappiamo degli stimatori dell'amore, che sono i nostri amici del Royal Café di Sterzale, ai quali dedichiamo questo prezzo già pronunciato, anzi richiesto, Old Man di Neil Young. Okay. Rientriamo nel nostro studio, Ciccio, sotto le stelle, sotto le lamiere qua sopra. Sì, questa ottava di Clandestino Cid, un po' in ritardo, sempre in onda dall'aula P2 occupato, cubo 42, 41, 41, 40, 41. Va bene, no, è 40C, Peppe, Ponte Carrabile Unica, siamo qui, venite a trovarci numerosi. Allora Peppe, ritorniamo con la nostra rubrica e ci spostiamo adesso a Gerusalemme, dove vorrei fare delle piccole accortezze ai nostri ascoltatori. Per chi comunque è andato volta scorsa a votare per le primarie del PD, dovete sapere che il PD appoggia comunque la politica sionista di Israele, Peppe. Niente meno, sono andato ad aprire anche le prime sezioni a Gerusalemme. Wow, Ciccio. Cioè io vorrei sapere, no? Dall'Italia a Gerusalemme per fare cosa? E prendere voti, Ciccio. Cosa vanno a fare secondo te il PD? Senti cosa dice Eugenio Marino, responsabile PD per gli italiani all'estero. Ha dichiarato: sono particolarmente felice e orgoglioso che a questo congresso vi sia la partecipazione organica del circolo PD di Gerusalemme, che rappresenta un importante simbolo e antenna politica nel Medio Oriente, certo, come la politica sionista che viene perpetuata ai danni del popolo palestinese e non solo, Peppe. Bene, il PD, Partito Democratico. Sì, sì, chi sono? Lasciate il PD, perché... Tanti qui in Italia continuiamo con i farconi, Peppe, non c'è bisogno del PD, siamo a posto, Peppe. Se abbiamo i farconi possiamo andare a prendere la paglia. Sì, adesso comunque grande sclappore, sono alla vetta degli ascolti, i farconi. Dovremmo sì, invitarne qualcuno. Possiamo invitare il leader dei farconi a Clandestino Cid, verrà con la sua Jaguar, Ciccio. Ma, fasci. Sì? Fasci, fascisti. Sì, sì. Un po' fascistelli sono, dai, Ciccio. Ricordiamo che Clandestino è antifascista dalla fondazione. Come Fuori Onda Radio. Cioè. Come Fuori Onda Radio, certo. Anticapitalista, antifascista, antirazzista. Bene Peppe, andiamo avanti con la musica e questa volta ci catapultiamo. Dove, Ciccio? Ci catapultiamo nella... Ma stiamo all'Inghilterra! No, ci capitiamo appunto con un pezzo che parla della Palestina, ricordando che c'è un popolo che ancora soffre. Da 65 anni ormai, sì. Dal 48, Peppe. 65 anni, tra un po' gli danno la pensione, sì. Eh sì. Questo pezzo è dei Kisap, direttamente da Valencia, Palestina. The original Kisap. Come stiamo? Muerte, inspiración. Voy a acabar con los males de la nación. Me hace sentir fuerte como un león. Cambia mala utilidad como un cañón. Para terminar con la confusión. Que nos lanzan para atar a la revolución. No hay enemigo, no que parece son. Nosotros luchamos de parte de la razón. Nuestro mejorar baja la imaginación. Para acabar con la maldita corrupción. Estamos hartos de tanta imposición. No sigas que no buscas ninguna solución. Palestina es camera toda, Palestina es camera toda. pásame el loco. Salutando tutti i nostri amici che ci ascoltano da Valencia e ricordando che prossimamente sul nuovo palinsesto di Fuori Onda Radio sarà presente un programma direttamente in diretta da Valencia. Sì. Ricordiamo le nuove trasmissioni che ci sono su Fuori Onda Radio. Qui da noi ci sono le Ciotia dell'Etere, Indie Radio dovrebbe ritornare, dall'Inghilterra il mitico Lupino con Comprami da gennaio. Ma noi stiamo all'Inghilterra! Siamo veramente all'Inghilterra. La trasmissione dalla Sicilia di Wood Night Motel dovrebbe riprendere settimana prossima. Anche loro lunedì, prima di noi, ci sarà Wood Night Motel. No, scusa, sbagliato. Mercoledì. L'altra trasmissione che viene da... Ci saranno anche un altro paio di trasmissioni, forse. Sì, forse, ma non anticipiamo niente. Non anticipiamo nulla. Facciamo tipo uovo di Pasqua. Esatto, uovo di Natale. Inventiamo l'uovo di Natale. Esatto. Allora, Peppe, niente, l'articolo ci arriva dall'anfiteatro di Cuma a Bacoli, Napoli. Dove, ma questo articolo comunque non l'ho capito. Povere tale nell'anfiteatro greco, un allevamento abusivo di maiali. Vabbè, si lamentano che Pompei sta cadendo a pezzi. Il Colosseo ci è rimasto ben poco. Almeno, voglio dire. Il Colosseo è rimasto un bel pezzo. Sì, vabbè, però dico l'anfiteatro greco adibito ad allevamento di maiali. Per me, io ci sto. Un riutilizzo delle opere d'arte. Un riutilizzo delle opere d'arte, diciamo, impegnate nel sociale. Ricordiamo che nel 2012 Clandestino Cid portò avanti anche la campagna che durò ben 7 stagioni di Save the Pig, con l'allaccio del movimento Don't Touch the Pig. Quindi alla fine, Peppe, cioè, voglio dire, saranno pure scavi del primo secolo avanti Cristo, ma evidentemente se invece di tenerla all'incuria di uno stato che se ne fotte altamente, almeno, Peppe, ci stanno i maiali. Tanti, o i porci in Parlamento, o i porci là, sempre porci. Comunque, chissà se all'epoca dei romani tenevano, dei greci tenevano i maiali là dentro. Che ne sai? In realtà era un porcile che tutti hanno pensato fosse un anfiteatro. Beh, Peppe, può darsi. Comunque alla fine... Sì, un po' di tristezza, però c'è una considerazione da fare, quella che abbiamo uno Stato che non incentiva le opere pubbliche, anzi tanto del patrimonio è stato anche venduto all'estero, e si pensava per risanare comunque il debito pubblico italiano. Sta cadendo tutto a pezzi, e la cosa è molto triste. Dalle altre parti del mondo comunque si incentiva il turismo, la storia, la cultura, e qui la cultura, come vediamo, qui la cultura che l'abbiamo, la buttiamo, no, è adibita, la buttiamo ai porci, meglio ai porci. Qualcuno dirà: in Italia tante delle opere d'arte che abbiamo che le possiamo usare anche come porcile. Certo, beh, perché no? Qualcuno se ne uscirà questa storia. Comunque, mandiamo un pezzo, Ciccio. E dopo questo pezzo, la nostra rubrica con intervista all'artista. Volevo mandare un pezzo degli Strokes. Strokes. Last Night, dell'album Is This It. Last night Buonasera, questa sera per l'intervista dell'artista abbiamo un personaggio tutto esclusivo, solo per voi su Clandestino Cid. Diamo il benvenuto a Manlio Calafro Campano. Buonasera, Manlio. Buonasera, buonasera a tutti voi gli ascoltatori. Beh, Cominciamo con la presentazione. Chi è Manlio? Manlio è una nuova realtà sulla scena reggae italiana dal 2010, che ieri Calafro Campano appunto esprime le mie radici e le mie origini 101% terrunie, nonostante abiti a Roma da diversi anni, e sono uscito sulla scena reggae romano, origini come stesso Lekeiei dice, calabresi tramite la mamma di Ciro Marina del Crotonese e campane da parte del papà di Napoli. Bene, Mario, come ti avvicini al genere reggae e perché lo scegli? Lo fai tuo? Ma scelgo il reggae, mi avvicino alla filosofia, alla realtà e alla mentalità di questa musica, in primis perché esprime con tutta quanta la sua forza, le sue vibrazioni, la vera coscienza, i veri messaggi positivi che l'interiorità e l'essere umano possa esprimere attraverso la vibrazione. Quindi attraverso i messaggi più puri che una musica possa trasmettere, la musica come potenza di messaggio e come potenza di vibrazione, come potenza sonora, sono convinto che possa dare molto. Quindi proprio il reggae, come è stata sempre, da sempre definita, musica della coscienza, musica che risveglia le coscienze, mi ha intrigato, mi ha appassionato, nonostante l'ascoltavo già dalla tenera età, così, se così possiamo definire, e quindi mi sono dedicato, anche se tutto poi è venuto da sé, tutto è cominciato per gioco, diciamo. Con la passione dei primi ascolti, delle cassettine o dei CD o dei primi CD di Bob Marley o delle prime cassette e CD masterizzati e passati tra gli amici dei Villa da Posse, dei Sound System, dei 99 Posse, fino ad arrivare alle prime liriche che poi mi hanno coinvolto nella scena, vedendomi protagonista sui palchi appunto con quelli che per me erano i miti e le muse ispiratrici come Villada, Radici nel Cemento, Brusco, Sud Sound System e così via. Quando si avvia sulla scena Manlio Calafro Campano? E il primo passo sulla scena è fine 2009, nel 2010, quindi 3 anni fa, con il primo album Consapevolezza, in download presentato da Radio Onda Rossa, dal Sego, è stato sempre vicino alla scena antagonista e ribelle romana, dal 32 ai Delollis Occupati, agli Spazi Sociali, al Quadraro, con Melody Roots Sound, appunto nel 2010, fino ad arrivare all'evoluzione con la Sound Unity Family, che è quella che oggi, con cui oggi porto le Good Vibration in giro in tutta l'Italia. Dicevamo prima, appunto, il genere reggae è un genere molto particolare, quasi uno stile di vita, una fede religiosa, anzi. Nei tuoi lavori, comunque, rivediamo molto la denuncia sociale. Tu personalmente sei impiegato nel sociale, cioè portando tipo la tua musica proprio a livello sociale. Qual è il riscontro che hai con il tuo pubblico? Beh, fin dal primo album che aveva un titolo abbastanza impegnato e diretto, senza fronzoli di parole, consapevolezza, comunque la mia musica, per chi mi conosce, esprime da sempre messaggi sociali, messaggi filosofici che possono andare da quelli più spirituali a quelli più riottosi, ribelli e antagonisti, toccando sempre varie tematiche, però in primis a mio parere la potenza è nel messaggio, quindi una musica che rimane sterile, vuota e priva di messaggi rimane fine a se stessa, mentre un messaggio lanciato con una musica e con un testo che ascoltano le persone, che fa riflettere la gente e che risveglia soprattutto i più giovani. Con grande con grande soddisfazione posso dire che molti giovani si sono avvicinati a questa musica anche nel mio piccolo paesino, come può essere Cilo Marina, paese di origine calabrese, o la Lispoli, dove sta nascendo una Massive e dove il piano piano il reggae sta prendendo sempre più piede, e dove vedo molti giovani che appunto si avvicinano al reggae come all'hip hop, come alle musiche comunque che lanciano un messaggio sociale e tematiche forti, anche per rivendicazioni sociali e culturali, soprattutto in questa società che ci nega di tutto e di più, a partire dal lavoro, 44% di disoccupazione giovanile in questo mese è stata riscontrata, andando con tutte quante le altre tematiche, i tagli che il governo sta facendo alla scuola, i tagli che sta facendo alla sanità e all'istruzione, all'università, investendo come al solito sempre tantissimi soldi inutili come opere fatiscenti quale la TAV o quali gli F-35, investendo quindi sempre per la guerra e per mezzi fini al solito profitto del capitalismo. Quindi il messaggio è tutto. Come dicevi bene, cioè, parlando un po' della scena anche calabrese, vediamo riaffiorire un po' il genere reggae, anche un po' una soddisfazione, no? Appartenendo un po' a quel sud del mondo purtroppo anche dimenticato. Sì. Come vedi tu la scena calabrese, anche perché l'incarni nella tua parte? Beh, sicuramente la scena calabrese in generale è attiva già da tempo, soprattutto nel vostro Cosentino e nel Catanzarese, che già da anni comunque andate avanti con spazi liberi, con radio indipendenti. Magari nel crotonese la realtà è che vivo io in primis, e che nel 2010 abbiamo portato a Cilo Marina la prima dancehall proprio nella zona e nelle zone limitrofe, dove anche a Natale, quindi dal 23 in poi, porteremo delle dancehall, e stiamo comunque piano piano crescendo nonostante le varie difficoltà, e nonostante essendo sempre musica di nicchia, sempre più persone comunque si avvicinano al genere, sempre più persone si sentono in giro per i paesini con ritmi battere e levare in macchina, e comunque si avvicinano sempre di più anche realtà che prima non conoscevano questo genere musicale. Adesso si avvicinano alle dancehall, si avvicinano magari per iniziare a voler qualche dritta per suonare. Addirittura un giovane che è entrato a far parte della Grimisa Massive, la mia crew di Cilo Marina, che saluto, Dodiman, che a soli 15 anni ha cominciato a scrivere testi avvicinandosi alla scena, è venuto tra l'altro anche live a Catanzaro facendo un paio di pezzi sul palco con me. Sia a Cosenza, sia a Catanzaro, sia a Crotone, quindi piano piano stiamo spronando anche le nuove generazioni a lanciare un messaggio di ribellione e a portare avanti questa musica come ribalta sul messaggio che possa portare dalle nuove generazioni a quelle più anziane che ci ascoltano. Fa piacere infatti anche vedere persone adulte che vengono alle dancehall sulla spiaggia o negli spazi liberi in cui facciamo serate, spesso anche nell'Interland Cirtano, Cilo Superiore, Cilo Marina. Quindi sicuramente c'è un fermento, e questo è buono. Comunque da Cosenza a Reggio Calabria piano piano vedo sempre più movimento, e speriamo che vada avanti a oltranza. I tuoi ultimi lavori in cosa ti vedono impegnato? I miei ultimi lavori sono come ultima produzione vera e propria, è stata prima di quest'estate con il Boss Tap Rhythm, su cui hanno collaborato anche artisti giamaicani, artisti francesi e molti italiani, una produzione di Virtus, rimanendo sempre in Calabria, un compare calabrese che saluto, Virtus e la Red Golden Green Family, e il pezzo si chiama Godi, in featuring con Mattune, che esprime sempre appunto quella positività di godersi la vita e di giocarsi la partita in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza. Vogliamo parlare anche della tua esperienza a Londra? Sì, proprio qualche mese fa, un paio di mesi fa, ho avuto la fortuna di condividere con Open the Gate Sound, un sound londinese, diverse serate, tra cui due date a Londra, la prima ufficiale mia all'estero, che è stata a Dalston, vero successo comunque anche grazie all'apertura di una band storica, stata anche alla BBC londinese, quindi televisioni di playlist di primo livello in Inghilterra, appunto i Black Slate, l'apertura Black Slate con oltre 500 presenze, quindi il mio primo passo in Europa con un pubblico veramente folto e tantissimi italiani che appunto erano venuti a vedere, oh vedi che c'è sta Malli, questo qua, sta amico mio, vattela a sentire, oh compare, che canta pure tutta, quindi col passo parola ho trovato tantissimi amici, sia calabresi, sia napoletani, sia di Pescara, sia salentini, di Milano, quindi comunque c'è stato un bel passaparola, oltre alla massiva inglese comunque è stata calda e nonostante il mio alternarsi di macaroni English e liriche italiane, in quanto prevalentemente canto in italiano, anche se usciranno a breve anche delle produzioni inglesi, è stata comunque calorosa e di condividere qualche video, così se non l'avete ancora visto potrete rendervi conto dell'atmosfera che c'era al mio primo live a Londra. Certo, saremmo felici di guardarlo. Mario, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi su Clandestino Cid, tutto lo staff di Fuori Onda Radio ti ringrazia, augurandoti il meglio per la tua carriera, che possa comunque andare avanti così e naturalmente di poterti nuovamente rivedere dal vivo. Ricordiamo che ci lasci con uno dei tuoi ultimi lavori, che è Atmosfera, se ce lo descrivi. Sì, Atmosfera è l'ultimo clip ufficiale, l'ultimo videoclip ufficiale estratto appunto dal mio ultimo lavoro, che è l'album Sogno, scaricabile in free download dei miei canali Facebook e YouTube, ed è un featuring fatto con un altro dei pezzi storici di cui io appunto mi ispiravo come veterani della scena italiana, era Rasta Blanco, la voce della storica rap Scarag Band romana, Radici nel Cemento, e appunto l'atmosfera è quell'atmosfera genuina, quell'atmosfera di cuore che si crea in ogni solo, come descrivono anche le immagini del video. Ogni serata c'è uno scambio di energia sia tra chi sta sul palco sia tra chi sta sotto, in quanto non ci siamo mai sentiti diversi da chi ascolta e tra chi canta, ma è sola una grande massa unita in quell'atmosfera, in quella amalgamazione che appunto ci unisce in una mentalità ribelle, in una mentalità di divertimento, in una mentalità di unione. Proprio per questo anche il mio sound ha un nome che fa capire bene quello che è la nostra mentalità: Sound Unity, unione di sound, unione di suoni, unione di persone. Benissimo Mario, noi ci ascoltiamo Atmosfera, salutandoti e ringraziandoti. Ringrazio a te e alla Clandestino, ci vediamo in Calabria prossimamente, ricordo le date che farò durante il periodo natalizio, sempre in Calabria, sempre e comunque in Calabria, a Luca Monetta, a Rostiere Sosizia, a portare buone vibrazioni. Il 23 sarò a Ciro Marina, e dopo che dici che ci saranno le serate tra Crotone, Verzino ed altre date calabresi. Naturalmente potete trovare tutto quanto sulla pagina ufficiale Facebook e sui miei vari profili in Mario Calafro Campano. Ancora un big up Clandestino Radio, Calafro Campano, Cinema, tu dedica Coco, Wrestling Freestyle, originale, Terry, una style original, mossine clandestine in tutta Italia, cine, contro il razzismo, contro il fascismo, senta la buona mossa, cinema, compa, senta la mambra, Calafro Campano, sta cantando, yes I, big up Clandestino, enough respect, peace and love, Calafro Campano style, bless. Bella Maglia. Musica vera, qui si crea l'atmosfera che ci porta a parlare massicci finché nasce l'aurora. L'aria è calda stasera ed il sound spinge, solo musica vera si crea l'atmosfera che ci porta a parlare massicci. Come on, come on, come on, lasciati trasportare dalle note nella dance hall, because this music is a lyric of your soul. Don't stop the movement, don't stop the love, listen up your heart in a love. Ma le con le liriche ti crea fomento, seguimi compare mo tieni il tempo, qui con Rasta Blanco c'è movimento, crescono radici pure nel cemento, lascia stare frustrazione e turbamento e goditi la nota nel suo momento, momento. Preghiamo Rasta Blanco, te lo dico. figo e non me stanco e reclamo il mio microfono fino a quando resto afono. Mo metto l'annuncio, la denso non c'è rinuncio. Reggae metropolitano calafro campano. È calda stasera ed il sound spinge, solo musica vera, qui si crea l'atmosfera che ci porta a parlare massicci finché nasce l'aurora. L'aria è calda stasera ed il sound spinge, solo musica vera, si crea l'atmosfera che ci porta a parlare massicci. Come on, come on. La bischella che se la balla balla nella dance floor. Il cilecca che se la sballa sballa alla console. Il massiccio che se la rulla rulla. This is a rule of dancehall. La bagnona che se la balla balla nella dancehall. Un cilecca che poi se sballa sballa retta alla console. Lu compare che se la rulla rulla. Passami l'amor, passami l'amor, passami l'amor. Radici ideali, cuore e mentalità. Caccia ogni razzismo fuori dalla mia yard. Entra giù nel ghetto, spacca ogni città. Spezza le catene, porta gioia e libertà. L'aria è calda stasera ed il sound spinge, solo musica vera. Qui si crea l'atmosfera che ci porta a ballare massicci finché nasce l'aurora. L'aria è calda stasera ed il sound spinge, solo musica vera, si crea l'atmosfera che ci porta a parlare massicci. Come on, come on, come on. Feeling irate. Are you feeling irate? Are you feeling irate? Are you feeling irate? Falla come viene, falla come ti conviene. Falla che venga dal cuore, falla che faccia ballare un po' pensare. Allora falla come piace a te. Falla diventare questa danza la più bella che c'è. Reggae music, reggae music, reggae music, our rebel music. Reggae music, reggae music, reggae music, our rebel music. Entriamo dopo questo pezzo del nostro artista Manlio. Ricordiamo che Clandestino vuole far andare avanti gli artisti emergenti, gli artisti locali che non hanno voce su altri, sui mainstream, qualcuno direbbe. E noi diamo voce a questi artisti e cerchiamo di diffondere la cultura della musica indipendente, la musica che parte dal basso, quella che ci impongono le radio principali. Certo, Peppe, libertà assoluta, ringraziamo ancora una volta Manlio. Ti vedevo proprio presto questo pezzo per l'atmosfera, non lo so, ti ricorda qualche nuova sensazione, qualche stato positivo, no? Per, diciamo positive vibration. Grande Peppe che ci sta e ci sta ancora una volta, come ci sta anche chi? Berlusconi? No. Il Papa? No, come ci sta anche questa notizia, Peppe, che arriva direttamente dalla mappa internazionale Report Senza Frontiere, dove c'è la classifica mondiale della... No. Dove c'è la classifica mondiale della libertà di stampa nel 2013. Cioè, abbiamo un rullo di tamburi, Peppe? Il rullo di tamburi non ce l'abbiamo, però... Vabbè, per fermarli li fermi perché scatteranno adesso, perché cari amici, nella classifica mondiale della libertà di stampa del 2013 l'Italia, la nazione dove abitiamo, è precisamente al 57° posto dopo Ungheria, Moldavia, Argentina, Giappone, Sudafrica e Camerun. Applausi, Peppe. Il nostro paese è vero stile democratico. Ricordiamo libero, che ciccio, alla prima in vetta alle classifiche comunque c'è la Finlandia, Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Andorra, Danimarca, Liechtenstein. Nuova Zelanda, comunque tutti i paesi del nord Europa, Peppe, dove la benzina costa di meno. Bravo! Applausi per Peppe. Forse, non lo so, che succede? Allora Peppe, io avevo preparato un pezzo per te. Per me? Sì, te lo voglio dedicare. Acido. E il pezzo era proprio questo. Quale? Questo, sì. Ah, questo qui, è dominato, sì. Ciccio. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande come una città, un gigante, acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è. Viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, così lontano, non sono stata mai, già ripartirei, mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, acida dentro, acida con chi, acido non è, acido giorno, scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, un agitate, acido suono, sento solo te, resto che cos'è, acida sempre, acido per te, acido cos'è. Ciccio, grazie per la dedica, però non trovi il nesso con me e questo pezzo. Vabbè, parlavo del tuo stato d'animo. Non sono una persona acida, sì, un po' acida ci sono. Non c'è nessuna allusione con il mondo della droga. Ma lo puoi dire, Ciccio, che sono acido. No, non c'è nessuna allusione con il mondo della droga, stiamo parlando soltanto di stati d'animo, appunto Peppe tu incarni proprio... L'acidità. No, lo disse degli Elite Fever, non abbiamo mica bisogno di droghe, no, è tutto al naturale. Però cioè, sabato mi sembravi grande come una città. Qualcuno direbbe che blues. Mi sembravi grande come la città dei Trudi, Peppe. Volevo salutare qualcuno, Ciccio, io. Saluto. Iniziamo con i saluti. Salutiamo Marina. Bella Marie. Nostra collega di radio. Di radio adesso. E che ci sta ascoltando e mandando messaggi intimidatori. Volevo dirgli, Marina, non ci boicottare. Se no, renderemo parpa e focaccia la vostra trasmissione. Ma infatti ho trovato dei riscontri, non lo so, all'interno di Giotti e dell'Ether per Contro Clandestino. Sì, sì. Cioè, ma l'ho trovato aprendo la pagina Facebook. Esatto. Profilo. Come mai, Pep? Non lo so, ci odiano forse. Ci... Ma che cosa hai fatto tu? Quella sera era lì, Pep. Quella sera sono stato lì ad aiutarle a... Sono stato anche ospite addirittura, Ciccio. Sono stato lì ad aiutarle perché seguiamo un regista di esperienza decennale e sono rivolto al migliore sulla piazza. Cioè, ovviamente, quello di Clandestino Sifia. Sifia! Purtroppo anche lì si sono abbattuti i demoni che ce l'hanno con me e quindi mi sono portato tutta la sfortuna che di Clandestino la sono portata lì. Quindi sono io il problema, Cicci, forse. Il problema sei tu, Pat. Possiamo provare a cambiare tecnico? Vediamo se funziona tutto. Arriva qualche messaggio dalle nostre da chi, Ciccio, colleghe vedi? Che ci scrivono Upicciu e Narota Kajira. Salutiamo Andrea pure. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea, il tuo Picciu. Che cos'è il Picciu? Il Picciu penso che si intenda quella la sfortuna, nel senso portare male. La spiga. No, il... come si dice in italiano? Non lo so. Comunque quella cosa lì. Vabbè, ma siamo sotto Natale. Il malocchio, ci risuggerisce il figliolo. Siamo sotto Natale, sempre più buoni, sempre più ottimisti. Cerchiamo di salire nella nostra vetta. Quindi mandiamo un pezzo di Natale. Sì, pezzo per Natale anche. Per Natale. E per Lorenzo Blues. Per Lorenzo Blues. Chi Blues? E per Andrea Blues. Blues. Day after day, week after week, sometimes it gets so bad that we hardly speak. You know I still love you, baby, but I think we're way too close. Well, I just need a little time alone, but I'm gonna get back with you a little later on. 'Cause right now it's time for my peace of mind. Well, I do my best to stay off your nerves. I'm trying to give you everything you deserve. Look here. Sometimes even my best intentions, you know they still turn out wrong. Take yourself a little time alone, and we'll pick it up a little later on. 'Cause right now it's time for my peace of mind. Sunshine in the morning, moonlight at night, nothing means more to me than having you in my life. Sometimes, baby, the going gets a little rough. When it gets that way, baby, the rough gets tough, yeah. Time is a healer. Time is a test. Sometime or another, girl, everybody needs a little rest. But how can you miss me if I don't go away? So why don't we both spend a little time alone? A little later on, but right now it's time for my peace of mind. Boy, it's time for my peace of mind, baby. You know what? It's gonna work out fine. 'Cause right now, Blues, allucinante proprio, quasi quanto quello di qualcuno. Di Lorenzo Blues, certo. Che Blues salutiamo guardando le sue comparse a fine settimana. Yeah. Ok, siamo tornati. Siamo tornati. Key Blues. Key Blues e Lorenzo Blues. Allora, qui è nato intanto un piccolo... piccola diatriba sul Picciu. Qualcuno ci scrive affascino, invece chi ci parla di Picciu ci dice che in verità è ghiettatura, non è affascino. Quindi... Esatto, esatto, è ghiettatura. Ghiettatura, ok. Abbiamo imparato qualcosa di nuovo, Peppe. No Picciu, no party. L'affascino è il malocchio, sì. Beh, diciamo quindi che noi di Clandestino G dobbiamo... cioè, i programmi di Fuori Onda Radio in generale hanno tanto, tanto Picciu. Esatto. More Picciu. C'è qualcuno che fa le iettature. Picciulia. Che butta. Chi picciulia. Esatto. O piccioneggia. Bucic, non lo so. Comunque, qualcosa la fanno, secondo me, se no... Oppure siamo una che siamo imbranati, è molto più probabile. Va bene. Comunque procediamo con il prossimo pezzo, con la prossima notizia. La prossima notizia ci arriva direttamente dalla Val di Susa. Ah, questa è una bella notizia, Ciccio. Sì, questa è una bella notizia. Devono smettere di violentare i poveri poliziotti, Ciccio. Quelli sono lì che fanno il proprio lavoro e queste manifestanti brutte violentano i poliziotti, basta. Infatti la denuncia arriva dal bacio della Notav che spopolò su tutto il web e niente, la ragazza ventenne Nina De Chifre è stata denunciata per violenza sessuale. Peppe, l'attivista, lei dice: non era un messaggio di pace, volevo ridicolizzare i poliziotti. Invece, che cosa ha fatto il sindacato di polizia Cosa? Franco Maccari, intervistato durante un programma radiofonico. Che non era clandestino. Che non era, naturalmente, su Fuori Onda Radio. Ho denunciato la tipa Notav che ha baciato il casco del poliziotto. Ci sono un paio di reati. Uno è l'oltraggio, ma anche la violenza sessuale. Se io vengo lì e bacio sulla bocca non è reato? Se un poliziotto va a baciare una manifestante, a caso viene fuori la terza guerra mondiale. Beh, sul fatto che oltraggio ci sta, ma violenza sessuale no. Beh, mi sembra infatti qualcosa di troppo allargato. Vabbè che ultimamente i caschi li stanno togliendo, Peppe, quindi... Sì, ma ricordiamo che quando c'erano gli amici in piazza tolgono i caschi. Ma si sono innamorati i poliziotti, per questo io un casco. Ah, forse hanno tolto il casco così li baciavo direttamente in bocca. Volevano essere baciati. Ah, sì, infatti, dici tu, questa volta ci va bene. Beh, diciamo che ho visto tante manganellate quest'oggi anche ai nostri pagliacetti Casa Pound in varie manifestazioni, Peppe, nel romano. Quindi, se parliamo di romano... Sì, se parliamo di romano è arrivato il momento di dare... La parola... Al nostro... indignato da Roma. Vai Tarlo. Così in anteprima abbiamo preparato proprio il dolcetto finale per l'ottava puntata di Clandestino Cid. Direttamente da Roma, sempre citato e sempre amato, abbiamo il nostro amico Tarlo, l'indignato speciale da Roma e le sue vaticanate. Addirittura le vaticanate, cos'è sta storia? Non lo sapevo manco io. Perché non ci ascolti, vuol dire questo, Tarlo, ma... quando ti anticipiamo al pubblico le tue sono vaticanate, perché comunque molte volte ci parli di vaticanate. Sì, però devi sapere che io vi ascolto e non vi ascolto perché la rete vanno a merda. Io, se possibile, vorrei chiamare anche ad intervento Peppone, poi per un saluto, per un commento Tarlo tu Tarlo. Vabbè, Peppone ci abbracciamo dopo, ora lo vedo impegnato. Non se la sente. Vabbè, lasciamolo stare. Un po' restio, preso dai cazzi suoi. Possiamo accennare un blues? Ma accenniamo un blues. Non lo so, te c'hai un pezzo da dedicare a Peppone? No, mi riferivo al tuo blues, perché ricordiamolo, sabato sei venuto in Calabria. Ah sì, vabbè, era l'ultima trasferta dell'anno per me, dai. Cioè, avevo voglia di farmi una trasferta, ho detto perché non andavo a trovare i compagni di Cosenza, dove ci sono cresciuto, ci sono stato tanti anni, mi mancavano, quindi sono venuto a trovarli per una sera. Va bene, Tarlo, niente, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato qui con noi dal vivo su Clandestino Cid. Dal vivo, che non capita mai, cioè io una volta solo ho parlato, ho fatto un'intervista telefonica che è venuta una merda. Questo saluto non credo sia venuto bene, però. No, no, vabbè, lo mixi a mistero. Sì, mettici una base bella drum and bass giù e vedi che... Ok, Tarlo, tu e la tua drum and bass, passiamo appunto al prossimo pezzo che è? Il prossimo pezzo che è? Non lo so, ma facciamo qualcosa di classico, che andiamo sul blues. Andiamo, che ne so, fai un Ray Charles. Ok, e questo è Ray Charles con Unchain My Heart. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Phone. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Ringraziamo il nostro amico Tarlo, il vaticanologo. Il vaticanologo che arriva da Roma. Il nostro, l'erede di Rino Gaetano. Salutiamo anche Rino Marmitta. Esatto, dopo Rino Gaetano. Da Royal Café, un abbraccio Rino. Ok Peppe, uno mi teneva ferme e l'altro mi spogliava. Denuncia due cani per stupro. Incredibile storia del Tarantino, dove una donna ha denunciato dei cani randaggi per tentata violenza sessuale. L'appello degli animalisti: ora i cani sono rinchiusi in canile, adottateli. Taranto, uno mi teneva ferma, l'altro mi spogliava con l'intenzione di usarmi violenza. Questo è il drammatico racconto di una signora di Crispiano nel Tarantino. Arrivata dai carabinieri, la donna ha raccontato il suo incubo, il tentativo di stupro nei minimi dettagli, e poi ha sporto denuncia contro i due responsabili, due cani randaggi del paese. Sì, esattamente, due cani randaggi di Cristiano. Secondo il racconto della signora, gli animali sembravano essere in competizione fra loro per violentare la donna, fino a quando avrebbero deciso di provarci insieme, Peppe. Incredulità, naturalmente, in paese con gli animalisti che sono insorti e protestano. Uno dei cani, che chiamiamo Pinuccio, è una vecchia conoscenza di zona, racconta una volontaria talmente docile che durante una manifestazione statica contro il randagismo si è lasciato esporre sul tavolo come testimonial, nella speranza che qualcuno lo adottasse. Ora però i due cani sono stati portati in canile. Chissà se qualcuno conclude la volontaria grazie a questa storia surreale. Va bene Ciccio, ma la stai leggendo sull'air, cioè questa notizia? No, queste qua sono notizie di Today City News sulla cronaca. Vabbè, e niente, passiamo alla prossima notizia Ciccio. No vabbè, la prossima notizia riguarda proprio gli animalisti, perché vedi come siamo bipartisan, prima contro loro, adesso con loro. Si sono spogliati per dire basta agli allevamenti intensivi, anche Clandestino Cid è contro gli allevamenti intensivi. Non è vero, Peppe? Certo. e hanno deciso di fare la loro proposta con installazione artistica sotto la direzione dell'austriaco Wolfram Platz. Il titolo della protesta è stato il Festival The Crew of Creation a Monaco di Baviera Peppe. E come vedi ci sono nell'immagine tutti gli animalisti chiusi in gabbia, uno di fronte all'altro, tipo su un tavolino che sembrerebbe quasi a scacchi, Peppe. Ok Peppe, andiamo avanti con la musica. Volevo mandare un pezzo molto bello, questo dei Pearl Jam, ciccio, del 2011. Just Break. Yes, I understand that every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. Yeah, others, they got none, huh? Stay with me, yeah, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Hold me till I die, meet you on the other side. Bellissimo pezzo questo dei Pearl Jam, ciccio. Una fantastica, cioè, sì, bello proprio. Lo stavo leggendo prima il testo, infatti ho deciso di mandarla stasera. Non hai voluto prendere nulla e hai dato tutto. Stringimi fino al giorno in cui morirò, ti incontrerò dall'altra parte. Blues. Bene Peppe, siamo sul tramonto del Clandestino Cid. Molto malinconico questo. Questo finale è un pochettino. Questo finale. Vorrei ringraziare tutti i nostri ascoltatori. Chi non ci ascolta e chi non ci ha mai ascoltato. perché anche grazie a loro che si portano avanti progetti come le radio indipendenti. Non ho capito, sì. A chi si porta avanti? I progetti delle radio indipendenti. No, non ho capito a chi dobbiamo ringraziare. Ringrazio chi ci ha ascoltato, chi non ci ha ascoltato e chi non ci ha mai ascoltato. Perfetto, perfetto. Non avevo sentito. C'avevo le cuffie. Non avevo... Ok, Peppe. Un saluto a Barbara dalla Polonia, va fatto. Sì, salutiamo Barbara dalla Polonia, salutiamo il Royal Caffè di Serzale, salutiamo tutti i nostri amici di Cosenza, Antonio che c'è, Tonino che ci ascolta da Mantea, Adrienne dalla Francia e chi non c'è, e chiunque batte un colpo. Niente, Peppe, diamo appuntamento all'anno nuovo, augurando a tutti un buon anno. Che sia veramente un buon anno, Peppe, per tutti quanti. Che sia migliore di questo, soprattutto. Beh, sicuramente. Anche se comunque è stato un bell'anno per il 2013, Peppe. Bellissimo. Tutti gli anni sono belli. Oddio. Non tutti. Ci sono anni belli e anni brutti. Anni bisestili e anni non bisestili. Questo non era bisestile, c'è dispari. Quindi non può essere. Anni. E chiudiamo con un pezzo di... chiudiamo con, con loro? O sì. Volevi chiudere con cos'altro? No, va bene, dai, sceglielo tu la chiusura, Peppe. Chiudiamo con i Police. Bel pezzo, Peppe. So Lonely. Buonanotte, ragazzi. Buon anno, addio 2013. Ci risentiamo nel 2014. Sempre su Fuori Onda Radio, Radio. Ciao. Surprise, no miss.